Ethno Chic, musica ad indicazione geografica protetta. Musica con indicazione geografica protegida. Musique avec indication géographique protégée. Music with a protected geographical indication. Buonasera e bentornati a Ethno Chic, 21 febbraio 2018. Buonasera, e Vladimiro introduce questa musica e questo programma di oggi, che è particolarmente interessante da parte mia. Sì, in realtà l'introduzione era un omaggio dovuto a un grande etnomusicologo ricercatore, che qui vediamo in una eccezionale veste di cantante, Zoltán Kálos, ungherese. Per alcuni è stato quasi una specie di continuatore, insomma, dell'opera di ricerca sul campo di Zoltán Kodály e di Béla Bartók. Insomma, sulla scia ha fatto lui importantissime ricerche dagli anni 50 fino praticamente a pochissimi anni fa, e ci ha lasciato proprio la scorsa settimana all'età invidiabile di 92 anni. E io ho pensato bene comunque di dedicargli questo omaggio, perché è stato veramente il suo lavoro che ha fatto soprattutto nelle zone della Transilvania e della Moldavia, insomma, quindi e nell'attuale Romania, tra le minoranze ungheresi, è stato molto importante. Un lavoro di documentazione, di ricerca, durato veramente decenni, fatto in totale autonomia, insomma, anche dalle istituzioni budapestine, anche se ha avuto comunque un riconoscimento, ha avuto anche il premio Kossuth, che è un importante premio culturale che c'è in Ungheria, insomma. E quindi se n'è andato anche lui dopo Béla Almos, insomma, che era il violinista che sentivamo qui nel gruppo che accompagnava Zoltán Kálos, che erano i Musikas. E niente, io utasas, baci Zoltán. E continuiamo con quello che invece è il tema di questa puntata, delle puntate che proseguiranno, ovvero sia la musica e le culture nel Medio Oriente, nella loro complessità, nella loro ricchezza, un omaggio a queste terre purtroppo spesso travagliate da guerre, da conflitti decisi altrove praticamente. E quindi partiamo proprio dall'Anatolia, insomma, dalla parte della Turchia, anche se poi tratteremo, insomma, anche di minoranze, insomma, religiose, etniche. E partiamo proprio da quelle che sono un po' la coscienza e la voce di questa Turchia, altra Turchia potremmo definire, e partiamo proprio da un canto tradizionale turco che viene suonato da questo trovatore Ozan Firat, che è stato emigrante in Germania negli anni 70 e poi da qui appunto gli è stato registrato questo disco di musiche. E quindi partiamo proprio con questo brano. E qui siamo sempre a Radio Città del Capo, Etno Chic, 94.7, 96.250, i trovatori dei villaggi dell'Anatolia che appunto si spostavano da villaggio a villaggio e poi anche dall'Anatolia alla Turchia si dovevano spostare per vari motivi, spesso anche per motivi politici in Germania, insomma in altre zone migranti, come il caso di Ozan Firat, di cui stiamo ascoltando, che si accompagna al canto con il sas, questo luto a manico lungo molto diffuso appunto in quelle zone fino all'Azerbaigian. E anche il prossimo brano fa parte di questo repertorio e andiamo ad ascoltarlo. Musica. bülbül etme. Sen değil bağım, o senin derdinden. Ben yana yana tükendi fitilim, eridi yağım. O senin derdinden. Ben yana yana, haydar haydar haydar haydar. Ben yana yana, Ali Ali Ali Ali. Ben yana yana. Ayrılmış senlere döndüm, ateşi kararmış güllere döndüm. Deryadan ayrılmış senlere döndüm, ateşi kararmış güllere döndüm. Vakitsiz açılan güllere döndüm. Dost senin derdinden. Ben yana yana, haydar haydar haydar haydar. Ben yana yana, Ali Ali Ali. Ben yana yana. Sultanım doğdum eksildim, yemeden içmeden sudan kesildim. Sizleri sevdiğim için asıldım. Dost senin derdinden. Ben yana yana, haydar haydar haydar haydar. Ben yana yana, Ali Ali Ali Ali. Ben yana yana. Questo brano, il significato era non cantare l'usignolo perché, usignolo perché sono, non sono felice, sono incatenato. Amico, sono vicino, sono andato dal mare alla fonte, il fuoco si era spento, sono ritornato alle ceneri. Molto spesso questo linguaggio, per esempio questo è tratto da, attribuito a Pir Sultan Abdal, che è un importante poeta di questa tradizione, di questa, potremmo chiamarla una setta sciita, che è quella alevitica, che è una setta piuttosto, insomma, una corrente islamica piuttosto tollerante, insomma, è legata, insomma, alla tradizione che appunto risale a secoli addietro, e in cui poi molto spesso i testi, anche se parlano di significati religiosi o comunque oppure testi d'amore, in realtà sono come dei testi cifrati che spesso denunciano la situazione sociale, politica e l'oppressione del momento. Non a caso questo brano che abbiamo sentito, attribuito appunto a questo poeta del XVI secolo, si ritiene che lui, cioè la tradizione dice che lui l'avrebbe scritto prima di essere condotto al patibolo. E questo poeta appunto è Pir Sultan Abdal, è un poeta, insomma, piuttosto popolare, poi ne riparleremo anche dopo. E il prossimo brano. Thank you. Birisi tatlı, hey dost, hey dost, yalan dünyanın. Nesi tatlı, hey dost, hey dost, yalan dünyanın. Çileyle geçti, geçti şu benim ömrüm. Yoksulluktan başka başka nesini gördüm? Çileyle geçti geçti şu benim ömrüm. Yoksulluktan başka başka nesini gördüm? Çileyle geçti geçti şu benim ömrüm. Yoksullukla geçti geçti bizim ömrüm. Ne dostlar soruyor felek ne de sırdaşım. Çileyle geçti geçti şu benim ömrüm. Ne dostlar soruyor felek ne de sırdaşım. Çileyle geçti geçti şu benim ömrüm. Yoksullukla geçti geçti bizim ömrüm. Ben gülmedim zalım sen gül yalan dünyada. Çileyden geçti geçti şu benim ömrüm. Sen gül yalan dünyada. Çileyle geçti geçti şu benim ömrüm. Yoksullukla geçti geçti bizim ömrüm. E siamo sempre su Ethno Chic con questo trovatore Ozan Firat dal villaggio dell'Anatolia. E trovatore, per ricordarci cosa significa? Ma in realtà trovatore è un termine che usiamo noi incomodo, perché ci rende più l'idea di quello che è un po' la tradizione occidentale, il corrispettivo di questi musicisti, insomma, quindi delle specie di cantastorie che girano in villaggio villaggio portando delle storie, raccontando storie antiche e a volte storie moderne, appunto in chiave contemporanea. E per leggere un racconto che fanno proprio loro, la musica viene proprio dalla chiclic, cioè il fatto di essere a chic, che vuol dire trovatore. Nella tradizione non solo turca ma anche dei paesi vicini. Per esempio c'è anche un film del regista georgiano Sergei Parajanov dell'88, 1988, si chiama proprio Ashib Kerib, storia di un Ashug innamorato, che vi consigliamo di vedere, perché assolutamente l'opera di Parajanov è veramente molto originale, molto legata alla tradizione, insomma, del suo paese. E sempre in questo racconto, quando Adamo era solo, quando Eva non era nostra madre, non era ancora venuta al mondo, divenne una chic e cominciò a suonare della musica. E quando fu cacciato dal paradiso, si portò con lui il suo flauto, caval, perché era un pastore. All'origine il sas, cioè lo strumento che sentiamo qui a manico lungo che accompagna i trovatori, non aveva dei tasti, il violino non si suonava con la pece. Così restavano a un tono modesto suonando la musica, non troppo invadente. Poi arrivò il demonio, ha ispirato l'idea dei tasti e della pece, in modo che poi in seguito i musicisti potevano darsi sfogo sul loro modo di suonare e quindi entrare, come dire, in competizione. Questo ce lo racconta questo Airy Dev che adesso sentiamo suonare con questo Mekseb Sharik. Sono delle popolazioni sempre del sud-est della Turchia, come il musicista che abbiamo sentito adesso, che sono popolazioni nomadi e che qui andiamo a sentire una serie di danze, appunto della loro tradizione, che sono state registrate negli anni 90. Kayalıklardan yürümeli mi? Güzel soramadım. Shining Holly. Neler muradına, ne alacağına. Kanatlı tatlının güzel gelini, neler muradına. Bacadım üşüyor ayvanın dalı, alnını dokundum yazmalı. Gelirsin bu kadar mali, işte böyleymiş dünyanın hali. Gelirsin bu kadar mali, sonra ölmeymiş dünyanın hali. Thank you. qui c'era un'aria lunga, una specie di ora lunga, quasi di ricordo partocchiano, questo usus avas, che designano appunto i canti non misurati, insomma, canto libero, canto d'amore, alla fonte di pietra, ho lavato le mie mani, mia cara, non ho potuto domandarti come stavi, bella giovane sposa che rimani alla porta, dammi quello che aspetto e non prendere la mia vita. Dal giardino si allunga un ramo di melo cotogno, il rosso del tuo foulard ha ferito la mia fronte, mia cara, cosa vuoi fare di tutto questo bene? La fine è morire, questo è lo stato del mondo. E questo è un testo tipico, insomma, di questi canti di aria, canti non misurati, che si chiamano usunava, che sono tipo delle specie di arie lunghe, insomma, che sono introduzioni lente, poi a delle suite di danze, come abbiamo sentito. E sì, proprio un'area festiva, anche poi sembrava proprio, sì, al di là che si parlava di una sposa, ma sembra proprio una cosa da matrimonio, un sì, un perché rituale. Alla fine questi musicisti poi sono in situazioni di questo tipo. E ritorniamo sempre nella sfera dei trovatori, stavolta appunto a proprio nel classico, con questo musicista Sheikh Nessimi, nativo nel 1931 di Adana, che è appunto una città a est della Turchia, a sud-est della Turchia, dove fra l'altro Béla Bartók fece le sue ricerche negli anni 30, e siamo quasi al confine con la Siria. Questo musicista ha nato una famiglia agricoltori e poi ha fatto l'operaio, ha anche acquisito una certa coscienza politica negli anni in cui iniziano ad esserci i primi colpi, insomma, non i primi colpi di Stato, insomma, però i colpi di Stato negli anni 70 in Turchia, fino poi anche a, insomma, a portare questi temi, insomma, di contestazione di coscienza sociale, politica, insomma, sempre però una sfera di questo tipo di musica tradizionale, in cui lui si accompagna con uno strumento particolare, sempre della famiglia dei liuti a manico lungo, che si chiama jura, che è un liuto a quattro corde doppie, sempre con tasti movibili, con 11 tasti mobili, e che lui in qualche modo continua a suonare. Anche Sheikh Nessimi, che andiamo a sentire adesso con un primo brano, fa parte della comunità Levi, di cui abbiamo già parlato nel caso di Ozan Ferah. Şu dünyaya geldim geleli, geldim geleli, emanetten bir don giymişe döndüm, sahibi çıktı da Haydar elimden aldı. kor yerde koyun yaymışa döndüm, yaymışa döndüm. Sahibi çıktı da kardeş elimden aldı, kor yerde koyun yaymışa döndüm, yaymışa döndüm. Geldi geçti yar yar geri bakmadı, geri bakmadı. Handekler kazdırdım sular akmadı. Çok yuva bekledim haydar cücük çıkmadı. Boş yuva beklemiş yoz kuşa döndüm, yoz kuşa döndüm. Çok yuva bekledim dostlar cücük çıkmadı. Boş yuva beklemiş yoz kuşa döndüm, yoz kuşa döndüm. Sultan abdalım bu dünya fani, bu dünya fani. Baştan başa kimler sürdü devranı? Dostum biçi sözü sözü üşüttü beni. Yüce dağ başında buymuşa döndüm, donmuşa döndüm. Dostum İçi sözü sözü üşüttü beni. Yüce dağ başında buymuşa döndüm, dost donmuşa döndüm. E giustamente con Azul si faceva notare come in qualche modo nella resa musicale, insomma, di Shignesimi si vede comunque il fatto che lui ha avuto un momento in cui regista questo disco in Francia e negli anni 70, comunque si sente tutta un'influenza di una tradizione, se si vuole, più moderna, più legata alla tradizione urbana, con una ritmica, seppur su questo testo che è sempre di questo Pir Sultan Abdal di cui abbiamo parlato prima, però sempre con una ritmica, anche se su uno strumento antico, diciamo un pochino più moderno, giusto? Sì, sembrava proprio, per dire se molto così alla buona, sembrava proprio una che picchiava su una chitarra, sembrava un strumento, sì, molto, certo, moderno, invece no. Anche il tipo di cadenza è un pochino, sì, più orecchiabile, più quello che ci possiamo immaginare da una musica turca che possiamo sentire adesso, insomma, in qualche modo rivolta a un pubblico più urbano, magari anche di giovani, insomma, ricordiamo. Sì, perché avevi detto che proprio lui è andato dopo la campagna, è andato a vivere in città, ha lavorato in fabbrica, sì, quindi ci sta in fabbrica, che c'è... quindi c'è stata la sua formazione comunque da adulto, è stato così, poi appunto è stato in Francia, insomma, quindi comunque poi in questi anni lui era abbastanza giovane, perché essendo del 31, qui siamo negli anni 70, insomma, aveva sulla quarantina d'anni. E il prossimo brano si chiama Il paese dei Trovador, è appunto un omaggio un po' di Shignesimi, proprio alla tradizione di cui lui in qualche modo è uno dei componenti. Aşıklar diyarı esi vasile, esi vasile. Bir pir sultan vardır, bir de veseli. Birini bastırdın hunharcasına, hunharcasına birinin adına diktin heykeli. Birinin adına diktin heykeli. Birisi kükredi zalime karşı, zalime karşı birinin namerde eğikti başı. Birisi halk için verdi savaşı, verdi savaşı, birisi toprakla dikti bu taşı. Birisi toprakla dikti bu taşı. Birisi bey paşa dedi de gitti, dedi de gitti. Birisi ey şah dedi de bitti. Birisi taş toprak gül dedi üttü, gül dedi üttü. Birisi yalk için zindanda yattı. Birisi halk için zindanda yattı. Birisi içmedi zalim suyunu, zalim suyunu. Birisi okşadı hain huyunu. Birisi halk için verdi boynunu, verdi boynunu. Biri saraylarda etti hayini. Biri saraylarda etti hayini. Veysel söyleseydi halkın derdini, halkın derdini, o da boylamıştı çoktan zindanı. Değildir heykeli anmaz adını, anmaz adını, anladın mı şimdi ölen sultanı. Dost anladın mı bugün koca sultanı? Aşıklar halk için verir savaşı, verir savaşı. Onun da mutlaka zindan köşesi. Bugün baş veren var hem de savaşı, hem de savaşı. Bu devrin daha çok Hıdır Paşası. Dost bu devrin daha çok Hıdır Paşası. Nesimi bunları bilmeyen bilmez, bilmeyen bilmez. Halk aşıklarını zalimler sevmez. Zalimin sevdiği halktan sayılmaz, halktan sayılmaz. Herkes aşık ama pir sultan olmaz. Dost Nesimi de aşık pir sultan olmayı. E così sono le 22:24 minuti, quindi direi che è il momento arrivando. Dei saluti. E volevamo ricordarvi che siamo su Doshik, Radio Città del Capo, e che da qui a Pasqua ci sarà tutta una serie di puntate dedicate proprio alla musica e alle tradizioni musicali del Medio Oriente, con ospiti anche in studio, poeti, musicisti. Già settimana prossima ci abbiamo un ospite molto speciale anche. Sì, quindi seguiteci e vi lasciamo con un altro, l'ultimo brano di Akshik Nesimi, che è proprio un brano suo, che si chiama, parla appunto della miseria, insomma denuncia la miseria delle città della Turchia negli anni 70. E con questo vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima settimana. Non dimenticate di seguirci, seguiteci anche su Facebook, Etnochic RCDC, e buonanotte. Buonanotte a tutti. ...1972'de... ...Günaydın gazetesi... ...manşet atmıştı. Üç tane... ...Anadolu çocuğu... ...beş, yedi ve... ...dokuz yaşlarında... ...bir çöp bidonunda... ...yiyecek seçiyorlardı. Ben bu... ...üç... ...Anadolu çocuğunu görüşün... ...acizana şunu yazdım. Hele bakın bu millete nasıl düşmüş sefalete. Hele bakın bu millete nasıl düşmüş sefalete. Çöplükteki rezalete gören o sen nedir size? Çöplükteki rezalete gören o seyyuhtir bize. Laflar atar eşiklikte, kimi sürünür çöplükte. Laflar atar eşiklikte, kimi sürünür çöplükte. Bu milleti bu kıtlıkta gören o sen nedir bize? Bu milleti bu kıtlıkta gören o seyyuhtir bize. Buyur dünyanın cenneti, bu millet kimlerden kötü? Buyur dünyanın cenneti, bu millet kimlerden kötü? Çöplükte arıyor eti, gören o sen nedir bize? Çöplükte seçiyor eti, gören o sen nedir bize? Altı yedi yaşlarında yoksulluk var peşlerinde. Altı yedi yaşlarında yoksulluk var peşlerinde. Çöplük kirri dişlerinde gören o sen nedir sizin? Çöplük kirri dişlerinde.